Avvocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Non in questo momento dobbiamo, per noi è come giocare una finale della Coppa del Mondo. Io penso che questi tantissimi giocatori, nessuno di loro si aspettava un momento a fine dicembre con tutte queste difficoltà. Per noi domani arriva una partita che secondo me ci può cambiare anche la stagione, sia a livello mentale che a livello di risultati, questo ne sono convinto. Partita importantissima, non esiste nessuna condizione affinché poi il risultato del derby sia un risultato qualunque. Ti dà molto, ti toglie molto. Sarà lo stadio pieno, giochiamo in casa, dare anche una sensazione positiva ai nostri tifosi, perché in questo momento devo dire che ci stanno dando tanto, noi stiamo dando meno a loro e penso che abbiamo il dovere di riuscire a fare una partita, far tornare l'entusiasmo che c'era 2 mesi fa, 3 mesi fa. Noi ci riteniamo pronti per giocare questa partita, dall'accesso a una semifinale, ed è chiaro che bisogna dare più di quello che abbiamo individualmente. Eccoci qui, 14.06 07 secondi, lo ripeto, 14.06 e 11 secondi. Adesso siamo rigorosamente in diretta, tutti convocati, non vi lascia neanche nelle festività di Natale e Capodanno, perché finalmente siamo diventati come gli inglesi, giochiamo anche noi tra Natale, Capodanno e anche alla Befana, e giochiamo anche del bel calcio, eh? Ieri abbiamo visto la Lazio conquistare la semifinale di Coppa Italia battendo la Fiorentina. Questa sera il derby della paura tra Milan e Inter, poi venerdì ci sarà il Napoli che può diventare campione d'inverno, sabato tutto il resto della giornata di Serie A con Inter-Lazio, con Fiorentina-Milan, con Verona-Juve. Abbiamo da fare una scorpacciata, carissimo Pier, ciao. Eccoci, ciao. Abbiamo da fare una scorpacciata. Saluto anche Dario Donato, amico e collega di Premium Sport. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ciao Pier, ciao Giovanni. Allora, come va? Tutto bene? Avete digerito? Sì. Sì, siamo tutti al lavoro, vedo che siamo tra amici, tutti al lavoro, quindi alla grande. Non si digerisce mai abbastanza. No, stiamo solo facendo una pausa aspettando il cenone di Capodanno. Allora, facciamo un giochino con voi e anche con gli amici da casa. 800 24 00 24, prenotatevi, intervenite fino alle 15. Oggi saremo particolarmente buoni e larghi nel farvi intervenire con Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabella in regia, oppure 349 238 6666, i vostri sms e whatsapp. Allora, io voglio vivere la vigilia del derby di Milano, derby di Natale, in 5 domande. Però in questo giochino sono vietate le risposte neutre. Capito Pier, capito Dario? Va bene. Vai. Allora, chi ci arriva peggio tra Inter e Milan? Chi comincia, Pier? Ci arriva peggio il Milan, però io ho la sensazione che questa sera, per come sta andando la stagione, sia un'occasione più per il Milan che per l'Inter, insomma. Cioè, il Milan stasera deve essenzialmente fare una buona partita, che non è facile ovviamente, ed evitare un altro Caporetto. Se l'Inter dovesse uscire oggi, sarebbe invece, secondo me, per il livello dell'avversario, un contraccolpo abbastanza pesante. Quindi secondo me rischia più l'Inter. Rischia più l'Inter perché ha fatto meglio l'Inter. Aspetta, chi rischia di più è la domanda numero 3. Chi rischia di più tra Spalletti e Gattuso? Sei d'accordo che arriva peggio il Milan dell'Inter, Dario? Dato che non vale una risposta neutra, ti dico di no. Il tifoso dell'Inter, che ha passato 2 settimane in vetta in classifica nel mese di dicembre, non poteva pensare che l'Inter perdesse, con tutto il rispetto, con l'Udinese, col Sassuolo, che complessivamente in campionato perdesse 10 punti con le piccole, cosa che è il doppio peggio rispetto alle pretendenti allo scudetto. Quindi, se devo dire, nel breve periodo ci arriva peggio l'Inter, perché il Milan andava già peggio prima, e complessivamente sta peggio il Milan, però i tifosi dell'Inter non si aspettavano una caduta simile. Io sono anche abbastanza convinto. Domanda numero due, che abbia più da perderci in caso di sconfitta l'Inter del Milan? Chi certo, ha più da perderci? Non c'è dubbio. L'Inter, certo, sicuramente. L'Inter. No, l'Inter ha più da perdere perché fino a questo momento l'andamento del Milan è stato penoso, mentre quello dell'Inter è stato molto positivo, al netto di due settimane complicate, quindi è chiaro che in questo momento comunque la favorita rimane l'Inter. Il Milan deve evitare stasera di... cioè, il Milan ha la possibilità di utilizzare questa partita come un piccolo ascensore per provare a recuperare qualcosa, che in caso di vittoria sarebbe fra l'altro una grande semifinale di Coppa Italia, che di questi tempi non è da buttar via, e per recuperare autostima, mentre l'Inter ha più da perdere, quindi l'Inter. Dario? Sì, no, su questo sono d'accordo, nel senso che tra l'altro dal punto di vista psicologico la storia ci dice che l'Inter è una squadra che poi può vivere momenti di basso repentinamente. Era già successo con Mancini dopo essere stato in vetta, eccetera, e quindi nonostante sia Coppa Italia, questo è non campionato, comunque una sconfitta secondo me potrebbe incidere sul morale di una squadra che dal punto di vista psicologico evidentemente ancora non è formata fino alla fine con la testa di Spalletti, quindi credo l'Inter anch'io. Sì, io oggi ho preso una marea di insulti avendo scritto che rischia più Spalletti di Gattuso, perché sono due squadre in crisi, ovviamente con le debite proporzioni, la crisetta dell'Inter non è la crisi del Milan. La mia teoria è che la stagione del Milan è così compromessa che stare dentro o fuori stasera in fondo cambia poco. Poi parliamo anche dell'altro punto dolente, cioè questa voce che gira per cui Gattuso potrebbe perdere la panchina in caso di eliminazione questa sera e di cattivo risultato sabato nell'ultima d'andata a Firenze. Però Spalletti ha tanto da perderci, perché io credo le due sconfitte hanno minato alla base un po' di quell'autostima che aveva faticosamente costruito per tre mesi, e soprattutto abbiamo capito che per lui non esiste un piano B sul mercato. Siete d'accordo? No, o rischia di più Gattuso, che magari rischia davvero la panchina? Posso dire, è un po' sempre la stessa risposta, adesso non è per derubricare questo giochino che fra l'altro è divertente, però è sempre un po' lo stesso ragionamento, cioè è chiaro che il Milan è in una condizione talmente negativa. Però sai, a sentire ieri Gattuso che è tornato a parlare ed evocare la finale di Coppa del Mondo, la necessità di svoltare la stagione, a sentire Gattuso quello che si sta giocando di più è lui. Io sono convinto che sia Spalletti. No, vabbè, ma lui non è che potrà mai dire che voglio dire, c'è anche un fatto, se vuoi, di garbo. È giusto che Gattuso sappia che si sta giocando tanto, anche perché quell'ipotesi alla quale facevi riferimento un istante fa non è così folle, nel senso che se stasera dovesse finire, faccio per dirti, in goleada per l'Inter. Ma voi ci credete a questa cosa? Cioè che possa tornare Montella, che possa tornare Montella, o che si possa andare a cercare il terzo traghettatore? Io ci credo, nel senso che l'ho anche paventata qualche giorno fa in diretta. Certo, è un habitus da squadra più piccola, lo sappiamo, sono cose che succedevano con Zamparini, che sono successe con Preziosi, quella del ritorno di un allenatore a libro paga. Però non dimentichiamoci che Montella prende 3 milioni all'anno, forse qualcosa in più fino al 2019, quindi se la situazione si dovesse fare ancora più critica e lui non dovesse trovare una panchina, si parlava della possibilità che vada in Spagna, a quel punto non lo troverei davvero una cosa così strana se lo richiamassero. È una, secondo me, un'ipotesi residuale ma plausibile. Pier? Sì, sono d'accordo, non è chiaramente, appunto, è un'ipotesi residuale, è chiaro che sarebbe abbastanza clamoroso e credo che si farà di tutto per evitare questo tipo di scenario, però non si può nemmeno, insomma, non si può nemmeno escluderlo del tutto, proprio perché insomma la partita di stasera, e aggiungo anche quella di sabato a Firenze, insomma sono partite pesanti, quindi il Milan è nettamente sopra il par, per usare il gergo golfistico, cioè, sta facendo nettamente male, assolutamente al di sotto, ecco, al di sotto di, e non c'è nessun margine di miglioramento, cioè ad oggi non si vede nulla. Appunto per questo io ti dico che la serata di oggi secondo me per il Milan può essere importante, perché oggi è un'occasione quasi perfetta per il Milan, sulla carta ovviamente, no? Perché ha un'avversaria che fino a questo momento ha fatto molto meglio, che ha avuto fino a pochi giorni fa uno stato d'animo completamente diverso. Considerate che Milan e Inter sono le due squadre che hanno rispettivamente meno punti rispetto all'anno scorso e più punti rispetto all'anno scorso. Questo dato rimane al netto delle due sconfitte con Udinese e Sassuolo. Quindi l'Inter è una squadra ancora eccitata al di là delle due sconfitte consecutive e il Milan ha la possibilità in 90 minuti di prendersi una rivincita che potrebbe valere molto di più della semifinale di Coppa Italia. Potrebbe essere veramente la svolta della stagione. Quindi è una grande opportunità. Poi di contro, ovviamente, se dovesse finire malissimo, non puoi escludere nessuno scenario, nemmeno il ritorno di Montella o comunque un'altra panchina. Che sarebbe qualcosa di clamoroso. Allora, vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati: 349-238-6666. C'è chi ci accusa di avere la memoria corta. Quest'estate osannavate il Milan campione d'Italia, snobbavate l'Inter. Io non so su che radio hai sentito che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, di sicuro non su questa. Certo, era messa un po' meglio di come è oggi, ma rivendichiamo, credo, un po' tutti, no, il giudizio. Nessuno si immaginava che il Milan sarebbe finito così. Poi un altro amico che scrive: il Milan continua a sbagliare come sbagliò Allegri a Sassuolo e gli costò la panchina, prendono un gol e vanno tutti avanti scoprendosi. C'è chi ricorda un 5-0 del Milan in un derby simile di Coppa Italia con un Milan ridotto peggio, Vincenzo dalla Corea. C'è chi chiede quando giocano Juve-Toro nei primi giorni di gennaio. Il 3. Mi date veloci il favorito, poi andiamo in traffico. Dario, favorito per la partita che finisce, sì, chi vince stasera? Credo l'Inter. Pier? Ma io ho sensazioni, sono molto eccitato da questa partita. Eccitato, ovviamente, no, entro i limiti del buon costume. No, è una partita che secondo me può regalare, insomma, a parte bellissimo, tu hai nel tuo cappello iniziale hai detto: io sono pazzo di questo nuovo format. Sì, sì. Avrei voluto, lo so, poi adesso mi scriverà, non lo so, da qualche associazione cattolica dicendo che sono, però io avrei voluto anche un bel posticipo il 25 alle 18, sarebbe stato stupendo. Mi diverte moltissimo e questi due derby, soprattutto ovviamente quello di stasera, sono straordinari. Io non la vedo scontata. Io penso che il Milan stasera farà una buona partita. E perse 6-0, le non lo so. Intanto non c'è Donnarumma. Intanto non c'è Donnarumma che salta il derby. Gioca a Storari. Questo è un dato. La domanda maligna è se sia un male o un bene per il Milan. Però... No, la domanda è un'altra. Sì. Se posso permettermi, dato che c'erano i tifosi. No, ma è ancora più maligna la tua, dai. Sì, la mia è ancora più maligna. parlando di campagna acquisti, se il fratello di Gigio Donnarumma guadagna 1 milione di euro all'anno, non posso pensare che, con tutto il bene che possiamo volere a un 41enne come Marco Storari, in porta debba andarci lui. Cioè, questa è un'altra cosa che mi dà veramente abbastanza da pensare sulle scelte estive della dirigenza, ma questo può essere solamente un appunto mio non condivisibile. Abbiamo capito che era un secondo portiere per finta. Il secondo è Storari, il terzo è il fratello di Donnarumma. Con buona pace di Minoraio, la Fassone, Mirabelli, di tutto quello che ci è stato raccontato. Grazie Dario. Un abbraccio a tutti voi. Ciao, ciao Dario. Grazie Dario, ciao. Donato, buon lavoro. Traffico, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta. Convocati. Aspetto un segnale per come li conosco io e quando c'è da mettere in mano poi a una reazione forte, anche se ora deve essere doppia perché non basta più uno ma ci vuole due come reazione, sanno benissimo prendersi le responsabilità. Sapevo che c'erano delle difficoltà, se no non sarei qua, ma pensavo che da parte mia ci voleva meno tempo per riuscire a mettere da parte la paura o mettere da parte sempre pensieri negativi, e penso che questo è un concetto che potevo far meglio e fino ad oggi non mi aspettavo tutto questo tempo. Allora, questi ancora Spalletti e Gattuso ieri alla vigilia, carissimo Pier, c'è chi dice che dopo la tua gufata il Milan è condannato. Sì. Che adoro Gattuso, io non so se diventerà un grande allenatore, glielo auguro. Secondo me sta sbagliando tutto. No, ma però voglio dire che a me piace, qui è proprio la persona che supera il personaggio, no? È l'uomo che supera il ruolo, nel momento nel quale lui, anche in queste dichiarazioni che abbiamo sentito, secondo me c'è proprio la sincerità di una persona che è così, ed è il suo bello secondo me, è che in una situazione come questa, insomma, si prende la responsabilità, fa capire di essere lui il primo a essere teso, a essere nervoso, fa capire che si aspettava evidentemente qualcosa di più, quindi diciamo non mette minimamente le mani avanti. A me piace. Poi, sì, però Pier, cioè, sì, è arrivato, doveva dare una scossa emotiva al di là di quella tecnica. Questo Milan è meno organizzato e gioca peggio dell'ultimo di Montella, paura. Io l'ho sentito dire ieri che ad esempio sui calci piazzati difende a uomo, perché così gli hanno chiesto i giocatori, anche se non è il suo calcio, e l'Inter e il Milan ha cominciato a prendere gol sul calcio piazzato quasi tutte le volte che viene messo un pallone in mezzo all'area di rigore. Non lo sto difendendo. Qualche dubbio comincio ad averlo, Ragazzi, la carriera di Gattuso da allenatore è tutta da vedere, tutta da scoprire. Il fatto che sia stato un grande giocatore è per me, insomma, anche una persona sicuramente di grande qualità umana, caratteriale. Credo che, insomma, Gattuso sia stato negli anni d'oro uno dei simboli, no, di come un calciatore tecnicamente dotato ma non così tanto sia diventato qualcosa di enorme. Quindi voglio dire, è stato qualcosa di più di un semplice calciatore Gattuso, e la carriera da allenatore ovviamente è tutta da vedere. Quindi non sto assolutamente, a me l'altro giorno non è piaciuto ovviamente per niente come ha giocato il Milan, non è in discussione questo, era una annotazione legata alla comunicazione, nella quale secondo me ci sono anche delle scelte molto naif, perché ti ripeto, io non so se direi una cosa del genere. Cioè, è chiaro che si capisce che c'è un disagio, che c'è una delusione, che c'è una difficoltà, però insomma l'aspetto umano, la sincerità mi piace, secondo me va sottolineata. Mario, fa parte del personaggio, cioè. Mario? Sì, buongiorno a tutti. Ciao, ti piace Gattuso? Ciao, ti sta piacendo? Mario. Vabbè, Gattuso io l'adoro, Pierre mi ha tolto le parole di bocca. Sì ragazzi, però va bene, Gattuso, Rino, no, tutto, per Riglio. Però di Gattuso, stiamo su questo mese da allenatore. No, certo, no, ma veramente io l'ho incontrato due volte e è una persona, come l'ha descritto Piero, anche meglio. Quindi questo ci mette un po' in difficoltà a giudicare i risultati del Milan, perché invece i risultati sono i peggiori ipotizzabili, questo purtroppo va detto. Credo forse che anche c'è la scelta di un allenatore così diverso da Montella, e quindi un cambio così traumatico proprio sia di mentalità che di sistema di gioco abbia portato un problema in più, no? Perché mi sembra che la squadra sia, oltre che impaurita, che quello si vede clamorosamente, e che poi determina che quando tu entri in campo con l'idea adesso mi fanno gol, appena supera gli avversari, superano metà campo, la palla magicamente ti finisce in porta. Sì, però, ragazzi, nell'ultimo Montella questa cosa non succedeva con tutti i limiti di quella squadra. Cioè, secondo me c'è stato un passo indietro netto nel modo in cui sta giocando il Milan oggi. Che è un paradosso. No, perché c'è confusione, no? C'è proprio questo passaggio da un modulo all'altro, da un modulo, direi, da una mentalità all'altra, secondo me è incompleta. E poi, insomma, se è vero che stanno facendo allenamenti più pesanti di prima, anche questo potrebbe essere un beneficio che nell'immediato non si vede, perché insomma caricare in allenamento dà frutti dopo, ma nell'immediato potrebbe anche essere negativo. Quindi la situazione è difficile per Gattuso, questo sicuramente, anche perché Milan fa enorme fatica a far gol, e più tempo nella partita passa senza che tu segni e più senti questo assillo, e alla fine prendi gol. Donnarumma che non c'è, è una pressione in meno, è uno svantaggio, perché c'è anche chi maligno ha detto che è talmente ingestibile in questo momento la situazione intorno a Donnarumma che non è poi un male che non ci sia. Ma non lo so, insomma, io credo che se il giocatore è forte è giusto che ci sia, quindi anche se non è tranquillo. Insomma, però non mi sembra già il caso di dargli una pausa di riflessione perché non è tranquillo. Comunque Solari, quando è stato chiamato, è sempre stato affidabile in tutte le squadre dove ha fatto il fondo, quindi se non si è troppo invecchiato, diciamo così, non credo che sposti gli equilibri, anche perché finora purtroppo il Milan il portiere del Milan credo sia il portiere che ha fatto meno parate dei campionati professionistici, cioè ogni tiro un gol, perché la squadra difende male, quindi rende quasi impossibile al portiere di intervenire. Sì, c'è anche un amico che dice che in due partite con Gattuso il Milan ha fatto più azioni d'attacco che in tutto il resto della stagione con Montella. Non lo so. Il progresso non c'è. E c'è secondo me la cosa di giustamente Mario è la confusione sicuramente, insomma. Però io quello che la mia sensazione è che questa scelta sia stata fatta perché in una stagione che si stava avviando veramente su un binario morto, è stato fatto un tentativo ad altissimo rischio, cercando di promuovere, di capire e di dare una possibilità a un allenatore che può ovviamente delle ambizioni, delle speranze dei dirigenti del Milan rappresentare qualcosa di grande per il futuro, ovviamente con un punto di partenza molto complicato. Io sono d'accordo con te, cioè sono d'accordo Capuans sul fatto che sicuramente alcuni momenti di Milan-Atalanta sono stati peggiori di molti momenti della gestione Montella, quindi ad oggi il bicchiere è assolutamente mezzo vuoto, non c'è discussione. Però ripeto, è stato un tentativo fatto secondo me per provare a sparigliare, per provare a dare una scossa e a fare un tentativo. Speriamo che stasera se giocherà Storari non arrivino lettere su pressioni, no, su violenze psicologiche. Sì. Su chi doveva essere secondo o terzo battuta. No, però sai, di questi tempi bisogna stare attenti a tutti. Grazie Mario. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie Mario Ielpo, 800 24 00 24. C'è Angelo, la provincia di Bergamo, c'è anche Massimo Paganin. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno, ciao Piero, ho sentito la sua voce. Sì, buongiorno, ciao. E auguri di buone feste. L'Inter è in crisi, Massimo? Beh, sì, nelle prossime due partite si vedrà se è vera crisi oppure se è stato sono stati dei passaggi a vuoto. Io credo che abbia lasciato un segno alla partita con il Pordenone in casa, quindi al di là di tutto credo che quella abbia lasciato un segno abbastanza profondo, nel senso che è stata presa con un piglio sbagliato e poi ha minato quelle che erano le certezze della squadra. È vero che l'Inter aveva fatto una buona gara comunque contro l'Udinese nel primo tempo, ha raccolto meno di quello che avrebbe dovuto probabilmente, poi però l'ha pagata anche con il Sassuolo e ha avuto un calo la squadra, anche da proprio un'involuzione dal punto di vista del gioco, se vogliamo, in quelle due partite, nel secondo tempo con l'Udinese e nella partita con il Sassuolo, l'involuzione data proprio dalla mancanza di certezze, ti trovi un po' sfiduciato e poco sicuro e di conseguenza due passaggi a vuoto che sono costati ovviamente tanti punti all'Inter, perché erano due partite importanti per riuscire a mantenere il passo delle prime. Però è vero anche che se andiamo ad analizzarle lo facciamo in maniera serena, l'Inter era partita per arrivare in Champions League, è chiaro che una volta trovatasi lì sperava e pensava di poter arrivare fino in fondo, però detto obiettivamente quella che dal punto di vista della profondità della rosa ne ha meno rispetto alle altre. E credo, io non so se condividete questo pensiero, credo che sia la grande preoccupazione di Spalletti, credo che anche sia la squadra che ha meno margini di crescita. Stando così le cose. Così forse sì, però appunto ripetiamolo una volta in più a costo di essere noiosi, cioè questa è la squadra che ha più punti di variazione rispetto all'anno scorso, cioè il calcio è liquido come dice uno simpatico e credo che sia vero e indubbiamente le ultime due partite non sono un dettaglio, hanno cambiato molto anche nella classifica, però rimane la sostanza della stagione dell'Inter che è fino a questo momento assolutamente positiva e non va dimenticata perché sennò veramente diventiamo schizofrenici. Poi detto questo, sicuramente quello che è successo nelle ultime due partite pesa tanto perché poi sono due avversarie appunto con tutto il rispetto non straordinarie e perché c'è la sensazione che qualcosa si sia rotto abbastanza improvvisamente e gli acquisti servirebbero come, ma qui però abbiamo capito che difficilmente arriveranno. Esatto. Per mille motivi, il fair play finanziario, le scelte di Suning, per questo io credo che Spalletti sia preoccupato, perché è difficile immaginare che questa squadra possa dare di più. Sì, diciamo che è arrivata forse ad un limite, nel senso che ha fatto il possibile, no? Poi è chiaro che devi variare quelle che sono le possibilità e soprattutto il modulo, e lo puoi fare attraverso dei giocatori importanti che sono in grado di alzare il livello e la qualità e soprattutto alzano anche il livello e la qualità della competizione all'interno degli allenamenti durante la settimana. Quegli 11 che vanno in campo, ho detto, cioè 11 che poi sono 12 o 13 e sono sempre quelli, voglio dire, poi alla fine no, non ci possono essere delle variazioni se andiamo a vedere la panchina dell'Inter o le possibilità che ha Spalletti, sta lavorando per cercare di far crescere Cancelo piuttosto che Dalbert. Caramo ci vorrà ancora molto più tempo, c'ha Eder in panchina, c'ha una variazione dal punto di vista proprio della rotazione dei centrocampisti con João Mario, che comunque ha avuto grossissime difficoltà fino a questo momento, perciò al di là di tutto io credo che la preoccupazione di Spalletti sia data proprio da questo, no? Dal fatto di sapere di non avere delle alternative che siano in grado di migliorare quella che è la situazione della squadra in questo momento. Ha fatto un grandissimo lavoro, ci sarebbe bisogno dell'aiuto della società sicuramente, è chiaro, se possono darlo glielo danno, altrimenti lui dovrà far di necessità virtù e andare avanti fino alla fine della stagione. Sì, e non credo che ieri sera, dopo aver visto la Lazio di questi tempi, sia andato a dormire tranquillo e sereno, però di questo abbiamo tempo di parlarne dopo le 14:30. Allora ringrazio Massimo Paganin, ciao Massimo. Grazie a voi, tanti auguri di buona continuazione, ci sentiamo poi. Ciao, ciao, alla prossima. Carissimo Pier, saluto anche te, a domani. Ma guarda, Vuoi stare? Sì, ma sto. Stai con sul divano. Così possiamo anche parlare della schedina con calma, La schedina di Natale. Mamma mia. Angelo. Mamma mia. Allora vado, grazie. No, stai lì. Angelo. Sto. Allora, hai pazienza un minuto, c'è la borsa e poi ripartiamo proprio da te. Va bene. Borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. Allora, io ricordo ancora il numero 800 24 00 24, siamo qui rigorosamente in diretta, sono le 14:34, 40 secondi, siamo qui fino alle 15, 800 24 00 24, vi aspetto, voglio sapere anche voi cosa ne pensate del derby di questa sera. Tra un istante parliamo della Lazio che si è qualificata ieri per le semifinali, c'è per Luigi Pardo, c'è Angelo dalla provincia di Bergamo, dai Angelo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a te. Come ho detto, il ragazzo del centralino, io sono tifoso del Milan che ho visto l'ultimo anno a giocare Lidl. Sì. Io sono del 40, sono un cavernicolo, pazienza. E ho visto la nascita di Gianni Rivera, a parte l'Atalanta che è la squadra del cuore. Però guardando bene il piatto così come oggi, dovrebbe vincere l'Inter il derby, dai. Insomma, E dopo, a parte gli allenatori, mi è dispiaciuto perché c'era Pippo Inzaghi, che come mai l'avranno cambiato. Anche Montella, sono molto un ammiratore di Montella e anche di Gattuso. Lasciamoli in pace, ste ragazzi, osti, lasciateli allenare la squadra. Sì, però credo, Angelo, che nelle ultime scelte non sia stata fortunatissima il Milan con gli allenatori. Guardi, è la direzione, è il direttore sportivo, è così che cambi la testa al presidente. Non so, il Milan è una squadra, è inutile negarlo, è una squadra da centro classifica, non bisogna avere tante pretese, dai ragazzi. Ma io credo che non si possa, non so, Pier, spendere 230 milioni per una squadra di centro classifica, no, senza esagerare, dire che doveva vincere lo scudetto. Sicuramente ci siamo fatti, guarda, io mi prendo il mio pezzo di responsabilità, perché tutti ci siamo fatti prendere, secondo me, un po' la mano dalla velocità della campagna acquisti, e forse siamo stati un po' superficiali poi c'è stato anche un buon precampionato e dei buoni preliminari di coppe, no? Perché con avversarie piccole, però comunque c'era un entusiasmo che insomma sembrava far preludere a cose veramente molto importanti, che non sono successe, e sicuramente insomma noi, mi ci metto anch'io, abbiamo esagerato nel considerare questa squadra dal punto di vista tecnico. Detto questo, è un momento molto complicato, perché a differenza degli anni scorsi, nei quali comunque sicuramente il Milan era in difficoltà dal punto di vista tecnico, però comunque c'erano dei punti di riferimento, c'erano comunque dei paletti dal punto di vista della società molto, molto forti e molto collaudati, con tutto rispetto per Fassone Mirabelli. Fassone è uno bravo, è uno che alla fine, poi quando c'è stato a sbloccare la trattativa con Elliott, insomma, nelle lunghissime settimane, Berinazzo ce lo racconta ogni volta, è stato decisivo, insomma, tutto è meno che una persona che non ci capisce. E Mirabelli comunque è un talent scout che delle intuizioni ce le ha, no? Sì, però in un momento come questo, errori, Sì, sì, ma appunto, e poi in un momento come questo, secondo me, si sente anche dal punto di vista del tifoso, penso, la mancanza di alcuni punti di riferimento. Io l'altro giorno sono uscito da San Siro e c'era una tifosa mia che diceva faccia tornare quelli di prima, ecco, poi magari non è giusto, non è la strada quella, perché gli ultimi anni sono stati deludenti, pure per Galliani e compagni. C'è un amico che li mette in fila, Leonardo, però... Sedorf, Inzaghi, Brocchi, Gattuso, cioè il ballo dei debuttanti sulla panchina del Milan, però, con risultati disastrosi, e Gattuso l'hanno scelto gli ultimi, gli altri li hanno scelti quelli c'era prima. C'era una società di un certo tipo, capito? C'era una società di un certo tipo, anche dal punto di vista, secondo me, dell'abitudine. Della conoscenza da parte dei tifosi, sapevi ed eri molto più tranquillo e molto più sereno. Oggi è veramente l'anno zero. Detto questo, non è finita, c'è ancora spazio, ci sono ancora delle possibilità, la stagione è lunga, anche se gli obiettivi importanti sono andati via. Il Milan deve viverla veramente di partita in partita, cercando di fare dei passi avanti. Io credo che la mossa di sostituire Montella con Gattuso sia nata proprio da questo, cioè dal tentativo di sparigliare, di andare a vedere se in una stagione comunque fallimentare, perché tale rimarrà a meno di miracoli, si riesce a tirar fuori qualcosa che possa essere utile per il futuro. C'è stata anche la voglia di dare in pasto Gattuso, il grande ex, il grande cuore rossonero, alla gente, eh? C'è stato anche questo ci sta. Guarda, non è una vergogna, ma ti posso, se tu parli con Agnelli e con i dirigenti della Juve, io credo che candidamente ti possano dire che Conte è stato scelto nella famosa estate del ritiro di Bardonecchia, che era, se non sbaglio, il 2010, forse il 2011, cioè il primo anno di Conte, è stato scelto dopo i due settimi posti anche per quel motivo lì, perché esiste un discorso di rapporto, e quindi era un allenatore che avrebbe goduto almeno all'inizio di un po' di luna di miele con i tifosi. Poi i dirigenti della Juve sono stati bravissimi, Conte è un grandissimo allenatore, chapeau a tutti, eccetera. Però voglio dire, non è una vergogna il fatto di dire di andarsi, cioè, a prendere la bandiera. Ma non c'è niente di male, che c'è no, di male? Però insomma, però poi il credito finisce anche per le bandiere. Gianluca da Perugia, certo. Gianluca. Salve, saluto a tutti. Una domanda per cortesia. Sono simpatizzante milanista, mi sono sempre domandato come mai Tassotti non è mai stato preso in considerazione come scelta tecnica per la panchina. È una, diciamo, un'esigenza sua, una non esigenza sua, oppure c'è una valutazione tecnica che non lo presuppone? Pier. Ma allora, abbiamo avuto anche recentemente a Tiki-Taka, tutti convocati, adesso non voglio fare l'estensore di parole altrui. Mi sembra che Tassotti abbia spesso fatto capire che in cima ai suoi pensieri non c'è stato mai questo salto, questa ambizione. È una persona di grande... Diciamo che ama il basso profilo, no? Che ama in un mondo già pieno di pressioni, questo salto non l'ha mai voluto fare. E io sono d'accordo con te, insomma, nel senso che comunque Tassotti è uno, oltre che di grande buonsenso, che ha vissuto stagioni importantissime, che è stato fondamentale per le scelte di Ancelotti, quindi sicuramente sarebbe stato ed è una grande risorsa. Adesso lavora con Sheva in Ucraina, credo stia molto bene, insomma non credo che abbia lui mai spinto più di tanto per fare un lavoro di questo tipo. Un'altra cosa, non c'entra niente, ma che secondo me va in questa direzione, per esempio Alberto De Rossi, no? A Roma quante volte con i risultati importanti che ha ottenuto in questi anni si è sentito dire ma perché non fa un salto, perché sì, ma quante non volte vuole questi salti qualcosa? Poi sono stati produttivi, poche, poco. Succedere, eh. Ricordo Stramaccioni all'Inter, sia, quando tu... No, ma certo, quando però ci sta che quando tu fai delle cose molto bene, come nel caso di Tassotti da secondo allenatore o nel caso di De Rossi da allenatore della primavera, ci possa essere la lusinga e la legittima volontà di misurarsi in qualcosa di diverso. In questi due casi invece credo che ci sia proprio una scelta di vita di rimanere un po' più tranquilli, di restare più sereni, dietro le quinte, continuare a fare il lavoro. Esatto. Sì, c'è chi fa il nome di Donadoni, che è stato per tante estate un'ipotesi per il Milan che non si è mai concretizzata. Allora, ieri abbiamo visto la Lazio battere la Fiorentina, partiamo da Pioli. È mancato il primo tempo, perché nel primo tempo siamo stati troppo imprecisi e poco pericolosi. Poi nel secondo tempo invece la squadra ha reagito, la squadra ha fatto la partita e non siamo riusciti a rimediare allo svantaggio iniziale. Sì, credo che meritasse la partita più recupero per la perdita di tempo quando la palla andava fuori. Abbiamo giocato poco nel secondo tempo, poco tempo effettivo, e quindi mi ha detto sì, ok, recuperiamo. Poi dopo, insomma, tre minuti mi sono sembrati poco, ma comunque è un particolare che adesso non fa più la differenza. Oh, non so te, ma a me ieri la Lazio ha fatto un'ottima impressione, carissimo Pier. Mi pare che la crisetta di novembre-dicembre sia passata, crisetta da 5 punti in 5 partite. con dentro un paio di sconfitte. Io l'ho detto prima, secondo me se ieri sera Spalletti, e credo proprio che l'abbia fatto, ha visto la partita della Lazio, è andato a dormire un po' meno sereno. Pier, allora adesso lo recuperiamo. Ecco, no, eccoti ci sono, qua. Ci sono. Ti dicevo, se sono, come penso, sono. Spalletti ieri ha visto la partita, è andato a dormire un po' meno sereno, pensando che sabato la Lazio viene a San Siro. Sì, ma insomma, non mi sorprende il risultato di ieri e non mi sorprende la Lazio che continua a fare delle piccole grandi cose, chiamiamole così, insomma, nel senso che è proprio una forza tranquilla, questa normalità che secondo me dà una grande. Da una grande spinta, un grande impulso alla squadra, nel senso che comunque questo partire sempre così un po' a fari bassi, no? E poi diventa una grande forza unita al lavoro di un allenatore bravissimo, di una squadra secondo me dal punto di vista tecnico comunque molto interessante e devo dire la verità di una società che dal punto di vista delle scelte è difficilmente contestabile. Io so benissimo, perché poi Michele Plastino, ad esempio, tanti altri opinionisti laziali ci raccontano, insomma, sappiamo che c'è stata, adesso meno magari, ma comunque c'è sempre un po' di contestazione nei confronti di Lotito e va bene tutto, però insomma, se uno poi valuta dal punto di vista strettamente tecnico quello che la Lazio ha fatto negli ultimi anni, insomma, sono risultati importanti ottenuti con spendendo poco, ottenuti facendo delle scelte molto oculate, quindi insomma sicuramente magari il tifoso della Lazio vorrebbe in certe circostanze un salto di qualità, quindi anche la forza e il coraggio di fare gli investimenti che qualche volta non vengono fatti, però insomma la Lazio è una realtà del calcio italiano, è una realtà enorme del calcio italiano e lo è tutto sommato spendendo il giusto, quindi chapeau. Io non sono d'accordo con chi ci scrive 349-238-6666 che non si tratta di Crisetta, ma con Toro e Fiorentina la Lazio sia stata affossata dagli arbitri. Secondo me la Lazio ha avuto, come normale che sia per chi fa l'Europa League, dopo metà novembre una crisetta fisica di risultati, ma questo dà maggior valore al fatto che si sia ripresa e ne sia uscita. Poi c'è stato qualche errore, ma quelli alla fine io credo si compensino abbastanza. Gli episodi. Sì, magari si compenseranno, però insomma, sicuramente si compenseranno. Insomma, io credo che. O forse non si compenseranno. Credo che se una squadra va giù come ha fatto la Lazio col Toro per un episodio come quello del rigore che c'era, in altre situazioni, magari ne esce. No, l'espulsione c'è, Pier. È inutile che ci giriamo intorno, lo dice il regolamento. Però voglio dire. È una catena, a parte adesso non voglio rifare la moviola un mese dopo, esatto. Ma è una catena di episodi che nasce da quell'errore lì, quindi insomma, detto questo... Io credo ci si sia ricamato su abbastanza, su quella partita. Sì, ma sicuramente, e poi ci sono anche i meriti del Toro che in quella situazione lì è stato bravissimo nel prendersela quella partita, però insomma, secondo me, a Inzaghi, secondo me in cuor suo poi gli alibi non piacciono, quindi io sono convinto che al di là delle dichiarazioni che aveva fatto poi all'interno dello spogliatoio avesse comunque cercato la strada giusta per migliorare la squadra, perché comunque degli errori erano stati commessi. Però sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che comunque poi alla fine non è che la Lazio ha avuto chissà quale grande crisi tecnica, ha avuto qualche partita meno brillante e in qualche partita ci sono stati anche gli episodi, ma insomma questo secondo me è abbastanza pacifico. Poi per me anche qui, no, la normalità della Lazio, nel senso che anche di shock negativi ce ne possono essere anche stati in questa stagione, perché Lazio-Torino certamente lo è stato, il derby sappiamo che cosa rappresenta il derby a Roma, e esattamente come lo scorso anno dopo il derby dell'andata non c'è stato invece un contraccolpo psicologico, cioè la squadra comunque è rimasta tranquilla, serena, e questa secondo me è una grande, grande qualità che Inzaghi sta dando, proprio di rimanere tranquilli nei momenti difficili, che non sono molti ma che ogni tanto ci sono. Allora, scrive un amico che chiunque passi tra Inter e Milan poi non ha speranze con la Lazio in semifinale. Vediamo, tra l'altro poi passerà un mese prima della semifinale d'andata e vediamo, due prima della semifinale di ritorno. Ad oggi secondo me la Lazio è favorita, lo sarebbe sia sull'Inter che sul Milan. Sul Milan sì, secondo sull'Inter 55-45, ma ad oggi secondo me sì. Secondo me no, sul Milan mese, assolutamente. Va bene, abbiamo il traffico, stanno arrivando tanti messaggi ancora sul Milan. Non è vero che stiamo facendo il funerale in anticipo al Milan, è che i temi ci portano lì, anzi, e anche i vostri messaggi. Io ho detto il contrario. Sì, io però tu, come ha scritto un amico, l'hai gufata. E quindi il Milan stasera è spacciato. L'ho gufata. No. Io stasera penso, proprio per le cose che abbiamo detto mille volte durante questa puntata, che sia una grande occasione per il Milan. Cioè, questa è una serata nella quale il Milan, con una partita giusta, azzeccata, contro un avversario che comunque qualche problemino nelle ultime partite ce l'ha avuto, può, non dico ritornare a risolvere i suoi problemi, per carità, però per una sera fare veramente qualche... No, non per una sera, cioè ripartire improvvisamente con uno slancio diverso. Vabbè, vediamo, traffico, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... convocati. Attenzione alla punizione di Eriksen, va in porta e trova proprio Harry Kane, porta a casa il vantaggio e a livello personale si porta a casa anche il suo record. Tocco per Son al centro, Kane. Questo record doveva batterlo, perché no? Farlo con stile. Allora, dicevamo che stiamo copiando gli inglesi che ieri hanno fatto il tradizionale Boxing Day di campionato. Nicola Ruggero, collega di Sky, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. C'è l'ottimo Pierluigi Pardo con noi. La domanda è, visto che ieri hanno celebrato tutti Harry Kane con il nuovo record di gol in un anno solare in Premier League, battuto quello di Shearer che risaleva al 95, oggi sui giornali Pochettino, allenatore del Tottenham, non so quanto provocatoriamente, ecco la domanda, trovatemi un attaccante più forte di Kane, glielo troviamo Nicola oppure no? Guarda, ne lasciamo perdere il discorso strettamente tecnico, perché sicuramente Kane è molto completo ed è fra l'altro un ragazzo che gode tutte le mie simpatie, per differenza dei calciatori inglesi non si è mai messo nei guai per vicende extra calcio, è uno che pare che non beva, pare che non vada in giro, pare che non abbia sposato, anche sicuramente non ha sposato una di quelle mille wags che circolano intorno ai calciatori inglesi, non solo, lui è fidanzato da sempre con la ragazza del liceo, l'unica volta che li si fotografa in giro per Londra quando portano a spasso il loro cane, hanno un labrador che amano tantissimo, ecco, per adesso tutto questo. Il problema di Harry Kane al momento è che lui non fa ancora gol in partite che contano veramente. Io dirò che Kane è un attaccante veramente completo e straordinario nel momento in cui comincerà con il Tottenham a segnare e a far vincere la sua squadra dei trofei, delle coppe o delle partite particolarmente importanti. Per ora ne abbiamo qualche sentore qua e là, uno che per esempio segna molto di derby con l'Arsenal, ma purtroppo negli ultimi anni l'Arsenal non è più quello squadrone che invece era all'inizio dell'era Wenger. Per il resto, sì, tripletta al Tottenham, tripletta al Burnley. Io vorrei vedergli fare le stesse triplette al Manchester United, al Chelsea, al Manchester City, in Europa, contro squadre veramente importanti. Questo è ancora, a mio parere, il limite di Harry Kane. Ma la Juve deve aver paura o no? È il limite... Posso dire una cosa? Sì. Secondo me, ha ragione Nick, è un po' anche il limite del Tottenham. Infatti... la vera domanda, no? Nel senso che sicuramente Kane questo tipo di tendenza non l'ha cambiata, non l'ha risolta, però l'eterno rimanere sospesa di questa squadra che negli ultimi anni è cresciuta molto, è tornata dopo tanti anni a essere una grande tradizionale del calcio inglese, però ancora quando deve fare il salto di qualità fino in fondo non ha avuto la forza, quindi è verissimo quello che dice Nick, forse è anche proprio la squadra che non lo aiuta tantissimo in queste circostanze. Ma la Juve deve aver paura o no di Kane e del Tottenham? Ma io dico di sì, per il fatto che comunque è una squadra che ha del talento, noi parliamo ovviamente in questo momento di Kane, non dimentichiamoci c'è un giocatore come Eriksen che è un elemento di grandissima qualità, ma non soltanto i due belgi difensivi, Alderweireld e Vertonghen, Lloris, che è portiere nazionale francese, che magari non sarà un top come portiere, intendendo top gente come Buffon, come Neuer, come De Gea, però diciamo sotto quella categoria lì ci sono quelli come Lloris, ha degli eccellenti esterni, a questo giocatore Son, che è un coreano che qui non si sa esattamente nemmeno che ruolo interpreta, perché fa bene tantissime cose in campo. Dele Alli, nel quale vale un po' il discorso di Kane, anzi ancora maggiorato. Dele Alli, grande talento sì, ma un grande talento che si accende intermittenza e quasi mai quando conta veramente. Quindi sicuramente poi è una squadra che gioca molto bene. Il vantaggio della Juventus, che l'esperienza della squadra di Allegri rispetto a quella di Pochettino in confronto con questo è infinitamente superiore. E di solito in queste cose in Coppa, in Champions, pesano. Mi fate sentire Mourinho. We are in the second year of trying to rebuild a football team, you know, so when you speak about responsibilities to win the Premier League, Tottenham doesn't have that responsibility because they are not a club with the same history as us. Arsenal doesn't have a responsibility to win it, Chelsea doesn't have responsibility to win it, and no, Manchester City, they buy fullbacks for the price of the strikers. So when you speak about big football clubs, you are speaking about the history of the club. You also spend more money as well. Okay. It's not enough. Oh, ha fatto un po' scalpore, questo, l'avete sentito, Mourinho, che ha detto: ma non è abbastanza aver speso 300 milioni di sterline per essere competitivi, per vincere? L'avete sentito? It's not enough, non è sufficiente. Bisogna spendere, ragazzi, di più. È il remake del famoso discorso fatto in Italia. Tutti parlano di Spalletti, nessuno parla di Spalletti, e questo è zero titoli Reloaded. Sì. È quella roba lì, è esattamente lo spostare l'attenzione su tutti gli altri. In parte è vero, nel senso che comunque è chiaro che il Manchester United si sta... Ha speso 349 milioni negli ultimi due anni, quelli di Mourinho. Sì, no, ma sicuramente, però voglio dire, il tempo è comunque il tempo, no? Lo dimostra il caso del Milan, tanto per dire, ci vuole tempo per fare le cose e farle bene. Sicuramente, insomma, questa qui è una difesa dialettica, appunto, da parte di Mourinho, che ci sta e non ci sta. Il Manchester United ha una storia, una tradizione, e ha speso tantissimo. È chiaro che il confronto col City in questo momento è un confronto assolutamente negativo, però... Secondo me non è sbagliato, cioè in tutta una serie di delle cose che lui dice sul Tottenham, sull'Arsenal, un fondo di verità c'è, nel sì, senso che non hanno l'obbligo di vincere, mentre lo United deve, no? Mentre lo United e il City devono. Nick, che effetto ha fatto? Perché mi pare, avendo letto oggi giornali inglesi, che l'abbiano un po' presa come un tentativo di mettere le mani avanti. No, è esattamente come diceva Pier prima, siccome le cose al Manchester United non vanno bene, intendiamoci, non andavano bene neanche l'anno scorso, perché è vero che è arrivata l'Europa League, ma per il Manchester United l'Europa League, francamente, è come chi è abituato a guidare una Bentley e si ritrova soddisfatto per guidare una Panda. È vero che è arrivato il successo in Coppa di Lega, ma insomma... il Manchester United è finito a distanza siderale dal Chelsea e quest'anno rischia di finire a distanza siderale dal Manchester City, senza tra l'altro mai dare la convinzione di essere una squadra in crescita di gioco. È una squadra che prende i giocatori, l'ultimo esempio è Mkhitaryan, e adesso sembra addirittura che Mkhitaryan sia in procinto di lasciare l'Old Trafford, quindi c'è una continua biura nelle scelte. Pogba è lontanissimo dal rendimento della Juventus ed è lontanissimo dal giustificare quei 100 milioni di sterline che sono state spese per acquistarlo, e non parliamo poi di Lukaku, per il quale vale il discorso Kane all'ennesima potenza. Ecco, Lukaku dà ragione a Cuccio quando diceva: le azioni non si contano ma si pesano. Ecco, i gol in caso di Lukaku non si contano ma si pesano, e i gol di Lukaku pesano vero, anche se magari alla fine della stagione ne fa 20. Quindi insomma, è un'evidente difficoltà, e quando Mourinho ha difficoltà sposta il discorso sugli altri. È chiaro che c'è sempre qualcuno che sta peggio di te al mondo, però solitamente, specialmente se sei il Manchester United, guardi al meglio, non al peggio. Sì, è difficile guardare indietro. Grazie Nick. Grazie a voi, saluto Pier. Grazie Nicola Ruggero. Ciao. Resta un secondo, non di più. Alex ce lo chiede: come è andata la schedina dello scorso fine settimana? È andata che ho vinto io e ha perso Pier. Domani tutti i dettagli. Ciao Pier. Sì, vabbè. dopo il GR alle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. No, si sa, è andata così. Ho vinto io, hai perso tu. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Andrea Roccapelle in regia. Ci troviamo rigorosamente in diretta domani dopo il GR delle 14. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.